Radio 24. Libera la voglia di fare. Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica, storia e musica. Ma intanto torniamo al 1984. Di quell'anno io ricordo il faccia a faccia con l'avvocato Gianni Agnelli. Abbiamo parlato di tante cose, ma in particolare voglio ricordare il suo pensiero sulle donne. Il perché lo capirete dopo. Avvocato, lei è un uomo molto amato dalle donne. Che effetto le fa questo? Se è vero, non può che farmi piacere. Ecco, ma l'amore per le donne, che cosa rappresenta nella sua vita? Se ha rappresentato qualcosa di importante? No, guardi, ci sono due tipi di uomini. Ci sono gli uomini che parlano di donne e gli uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare. Ma c'è qualcosa di importante allora che lei ha fatto nella sua vita per amore di una donna? Le ho detto di donne preferisco non parlare. Parlavo di cose. Ne parla metà paese, metà del tempo. Non mi vuole neanche dire qual è la più bella che ha conosciuto? Ma questo è come il miglior calciatore, diciamo. No? Forse è Edi Lamar, se andiamo in quella generazione. Ma lei è innamorato? Lo ero difficilmente a 20 anni, si immagini se all'età mia sono innamorato. No? Ma lei vede un futuro nel mondo degli affari per le donne? Sì, questo non ho nessun dubbio. Il futuro è dato per una migliore utilizzazione delle risorse umane. Nella migliore utilizzazione delle risorse umane, senza nessun dubbio, ci saranno più posti di responsabilità per i più giovani e per le donne. Cioè vedo un ventaglio che si apre con più posti per donne e giovani. Ha detto l'avvocato Agnelli, ci saranno più posti per i giovani e per le donne. E io qui lascio il posto appunto a due donne, Alessandra Fiore e Alessandra Cravetto, che sono pronte a fare il punto su questo fine settimana e poi, con Franco Schipani, arriverà il racconto di storia e musica del 1984. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Ciao Fiori, senti, ma com'è risentire la voce dell'avvocato? Come non parla lui delle donne? Nessuno, eh? Ah, sei contenta? Sì, felice. Allora ti parlo così. Sì. Non ne parlava, ma ne ha avute tante. Sì, poi era molto affascinante. Beh, era molto potente. Ma tra le tante donne, tu che sei di Torino, sai se aveva una super segretaria? Ma senti, non lo so, però credo di aver capito dove vuoi arrivare. Cia cia cia, della segretaria. Cia cia cia, che la sappi meccanografa. Cia cia cia. Cravetto, scusa, io ti dico solo una cosa. Un numero. Brava, 75 milioni di euro. Quello che ha avuto la signora Germana Chiodi, che al secolo e per sempre è la segretaria. Ma infatti altro che cia cia cia, starà ballando il mambo. Ehi, hey, hey, mambo, mambo italiano, ehi, hey, mambo. La signora Germana sta ballando il mambo. Comunque ho letto che lavorava 11 ore al giorno, andava via un minuto dopo il capo, era totalmente dedicata e devota a lui e al lavoro. Insomma, se li è guadagnati, magari non proprio tutti. Ma i 75, un minuto però... dopo andava via? Solo, beh, un minuto dopo andava via? Vale quello, evidentemente. Beh, se basta quello, comunque... Finalmente chi lavora guadagna. Finalmente, hai ragione. Comunque bisogna dire una cosa. Secondo me non ci sono più le segretarie di una volta. Devote, brave, potentissime. Erano loro i veri capi d'azienda. A me sai chi viene in mente? Chi? La signorina Vincenza Enea, la potentissima segretaria di Giulio Andreotti. Pare che custodisse segreti molto più importanti di quelli contenuti negli archivi della commissione stragi. Ammazza Fiori, ma quante ne sai? No, io non ne so nulla, però ho letto un articolo di Luca Telese molto molto... Ah, ti sei informato? Lui si è informato. E poi sei un po' segretaria dentro. Molto. Dopo la Chiodi, segretaria dentro forever. Abbiamo capito che le segretarie vincono. Comunque a me ne viene in mente anche un'altra, la signorina Silvani. Belva, non mi scacciare. Non mi picchiare. Non mi uccidere. Ascoltami. Tu sei la bella umana. Io l'ho capito fin dal primo momento, in fabbrica. Tu hai fatto fuori quella merdaccia e hai preso il suo posto. Ah, perché non vieni qui? Ma perché mi ha schiacciato i denti dentro. Belva, io non ti tradirò mai. Non svelerò mai la tua identità. Io voglio diventare la tua schiava. Vabbè, Cravetto, è tutto un altro tipo di segretaria questa. No, hai ragione. Infatti a lei nessuno ha lasciato 75 milioni di euro. Strano. Comunque non ci sono più le segretarie di una volta, né come la Chiodi, né come la signorina Silvani. A parte noi, vuoi dire? A parte, a parte noi. Comunque... Chi è la Chiodi e chi è la Silvani? Delle due? No, io... Se le segretarie di una volta stanno scomparendo, sono già scomparse, non lo so. Comunque ci sono delle figure che sono sempre più importanti nella vita di molte, di moltissime famiglie. Mirta, la protagonista di Orfani Bianchi, il nuovo libro di Antonio Manzini, è una badante moldava, trapiantata a Roma e costretta a lasciare in patria il suo bambino di 12 anni. Spacciandosi per un'infermiera diplomata, trova un lavoro in una lussuosa villa sull'Aventino per accudire donna Eleonora, una ricchissima ultranovantenne. Il rapporto tra le due è un vero inferno di violenza, rabbia e rancori. Antonio Manzini, che ha creato il fortunatissimo vicequestore Rocco Schiavone, si prende una pausa dal giallo per raccontare una storia durissima che ha il suo apice proprio nell'incontro tra Mirta ed Eleonora. Antonio, del loro incontro hai detto che è la fotografia tragica di come si sia ridotta la famiglia, ovvero? Ovvero credo che abbia fallito la famiglia italiana per come è stata intesa dal dopoguerra a oggi. Mi ricordo la famiglia di mio padre, quando papà era piccolo, dove c'erano padre, madre, due zie, uno zio, tre figli. La famiglia è stata un clan, sempre. È un gruppo di persone che si sostenevano e diventavano una forza propulsiva proprio per la società stessa. La famiglia così parcellizzata, madre, padre, due figli, divisa da muri, da condomini sempre più soli, sempre più abbandonati, non credo sia davanti agli occhi di tutti. È una forma di vita sbagliata, una forma di vita sociale, intendevo, fallita, non ha più niente da raccontare, racconta solo solitudine, precarietà e soprattutto incapacità di affrontare le grandi preoccupazioni di una famiglia, per esempio quella di badare a una persona anziana che non ce la fa più, che invece di farla avvenire questa cura all'interno di una famiglia, si devolve a qualcun altro questo compito, in questo caso le badanti rumene, che devono rompere la propria famiglia per stare dietro alle nostre. A un certo punto, donna Eleonora dice a Mirta che nella sofferenza però siamo tutti uguali. In che modo? La disperazione della sofferenza è un po' come la livella di Totò, è democratica. Non guarda in faccia nessuno, non guarda in faccia la classe sociale, non guarda in faccia la classe economica. Senti, una volta... C'erano le vedove bianche, che erano le mogli dei nostri emigranti, mentre adesso siamo gli orfani bianchi. Ma secondo te, Antonio, è peggio abbandonare o essere abbandonato? Questo va chiesto purtroppo a chi ha subito questa schifezza. È grave per tutti e due, perché abbandonare significa riempirsi di responsabilità, l'essere abbandonato soprattutto in un'età come quella di Ilie, nel sì, romanzo. 12 anni. E non capire che cosa sta succedendo, non capire perché si è stati abbandonati dalla madre, vuol dire forse non essere amati, vuol dire non aver meritato l'amore di una madre, non aver potuto avere una madre accanto, è una colpa che ci si fa, ci si mette addosso, probabilmente sì. Il mio personaggio la pensa così, pensa che sia colpa sua se la madre se n'è andata, non riesce a capire i meccanismi che hanno portato a questa divisione. Nel tuo libro comunque gli stranieri appaiono più buoni e più solidali degli italiani, che comunque nella migliore delle ipotesi sono indifferenti appunto alle sofferenze dei loro cari. Secondo te è così davvero? No, non è così. Nel mio libro appaiono le donne straniere, appaiono molto più forti. A parte un personaggio, gli uomini non escono benissimo. Sono quelli che abbandonano queste donne con dei figli, sono quelli che spariscono e che non hanno senso della responsabilità. Diciamo che la fiducia che ho nelle donne, non solo straniere, anche italiane, è forte. come quella delle prossime generazioni. La mia ha fallito, sia come uomo sia come generazione. Credo che la forza proprio ad architrave è qualcosa che si devolva alle donne ancora. Secondo l'INPS, nel 2015 in Italia, tra i lavoratori domestici contribuenti, è cresciuto proprio il numero di italiani, mentre è diminuito appunto quello degli stranieri. Insomma, la storia di Mirta potrebbe anche essere quella di un'italiana? Guarda, io purtroppo ho un sospetto su questi dati INPS, perché moltissimi lavoratori stranieri sono in nero. Sì. Quindi bisognerebbe vedere se questo dato sia affermativo o meno. Quando ero piccolo avevo una persona in casa, una donna italiana che si è sposata. Per molti italiani è una vergogna fare quel tipo di lavoro lì. Però credo che la crisi economica abbia supporti questo dato INPS in parte, sicuramente lo supporta. Il tuo vicequestore Schiavone sta per arrivare in televisione. Sì. Hai in mente un nuovo capitolo per lui? Sì, non come farne a meno, anche perché l'editore Antonio Sellerio potrebbe mandarmi dei sicari e terminare la mia vita domani mattina, quindi sì, assolutamente sì. Antonio Manzini, Orfani Bianchi, Chiare Lettere. Scusa Ale, posso chiederti una cosa? Ho paura, non lo so se me la puoi chiedere, che vuoi? Io te la chiedo. Vai. Nello stato in cui siamo... Io e te. Sei riuscita a chiedere all'autore del libro se è peggio abbandonare o essere abbandonate? Sei matta. Ma davvero tu non lo sai? No, io non lo so. Sai? Secondo me l'unica è abbandonarsi. Cravetto, abbandonati. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Mamme e smamme, abbiamo capito che avere una persona di fiducia è fondamentale, soprattutto per noi che facciamo una certa fatica a tenere insieme tutto e certe volte qualcosa ce lo scordiamo. Parla per te, assolutamente non, no, ho tutto sotto controllo. Non ti capita mai, mai, hai ragione. Mai. Ma a me ogni tanto invece mi capita e la cosa che mi riesce più difficile fare è ricordarmi tutte le password. Allora inizi con le varie combinazioni, i nomi dei figli al contrario, la data di nascita al più uno o meno uno. L'anno corrente ribaltato. Esatto. Sì. Però finalmente c'è una soluzione, c'è una app che si chiama LastPass che memorizza tutte le tue password a seconda del sito in cui le hai inserite, per cui a seconda se vai su Airbnb, di cui se ne parla tanto, mette la password di quello. No. Ma a sua volta naturalmente ha una password. Sì, che però non la puoi segnare da nessuna parte, è l'unica che devi tenere a mente. Ma lo vedi che allora è sempre meglio una segretaria vera. No, secondo me no, perché in realtà questa qui è gratuita. Oh, se i giorni d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? I giovani d'oggi valgono tanto. Roberto Macina, romano, 32 anni, ingegnere informatico, è il fondatore di Curami, una app che aiuta a risolvere un problema molto italiano, quello delle code, delle file negli uffici pubblici, in banca o alla stazione. Roberto, Curami è una app che in poche parole fa la coda al posto mio? Esatto, è nato proprio da questa esigenza, perché quando ho aspettato tantissimo tempo nella mia sedia studenti per consegnare semplicemente il CD con la mia tesi dentro, ho aspettato moltissimo tempo per fare questa semplicissima operazione e volevo in quel momento pagare qualcuno che facesse la fila al posto mio, perché ci ho messo veramente tanto. Pensavo ci fosse già un'app o qualcosa di tecnologico che mi aiutasse in quel senso, non c'era, e così è nata Curami. Mi spieghi bene come funziona? L'app cosa fa? Ci geolocalizza e ci trova intorno a noi tutti i punti che noi chiamiamo curamizzati, ovvero dove è possibile non fare la fila. A questo punto posso entrare virtualmente, vedere già quante persone ho davanti a me, sapere in tempo reale quanto dovrei aspettare, e nel caso in cui sono in punto abbastanza... diciamo in zona per prendere un bigliettino, posso staccare da Curami esattamente il mio numero di prenotazione come se fossi interno alla struttura dove voglio andare. Quindi stacchi il bigliettino non essendo dentro l'ufficio stesso, diciamo. Esatto, quella fa parte, diciamo, il nostro cuore tecnologico, perché noi abbiamo creato un sistema tale per cui riesce a connettersi con i sistemi delle prenotazioni. Quindi in verità Curami non è un saltafila, ma solo un modo per vivere la fila in modo diverso. E quindi tu nel momento in cui prendi quel bigliettino lì sai quanto è il tempo a disposizione in cui tu puoi fare altro? In tempo reale Kurami ti notifica su quante persone hai davanti, quindi tu sai esattamente che hai 20 persone, 19 persone, 18 persone, eccetera, eccetera, come se avessi il monitor dentro la sala d'attesa della mia tasca. Senti, oggi in quali uffici siete presenti? Tutta Italia, tutto il territorio nazionale. Sicuramente le città più grandi sono quelle con maggiore successo per noi, come Roma, come Milano, come Torino, e uffici comunali, camere di commercio, le bitterie delle grandi stazioni, tanti ospedali, tanta sanità. Oggi è presente su Kurami e risolviamo il problema dell'attesa per tante persone giornalmente. Senti, avete anche una collaborazione con Trenitalia per saltare le file alle biglietterie della stazione. Ma com'è che siete arrivati a parlare con l'allora amministratore delegato Moretti? È una storia molto bella perché oltre al coraggio e determinazione che abbiamo avuto nel fondare Kurami ci vuole anche un po' di fortuna. È stato grazie a un viaggio che abbiamo fatto per andare a Milano con il treno delle 6 di mattina che prendiamo spesso. Mm-hmm. E nel vagone caffè c'era appunto l'ex amministratore delegato, esatto. Abbiamo avuto, diciamo, la faccia tosta di fargli quello che viene definito il pitch, la presentazione dell'app in 30 secondi. Lui è stato molto gentile a darci il contatto giusto per andare avanti con la trattativa con Kurami e le stazioni. Infatti poi a distanza di settimane Trenitalia aveva chiamato e all'oggi collaborate con loro. Quindi assolutamente sì. Per partire, per vincere con una startup oggi ci vuole prima di tutto intraprendenza, e ce l'hai raccontata, e poi però i fondi. Chi ti ha finanziato a te? Quando è nato Kurami ancora non c'era in Italia un po' l'ecosistema che si sta creando oggi delle startup, ma c'era una persona molto illuminata che si chiama Luigi Capello, che ha fondato, proprio quando io avevo in mente l'idea di Kurami, quello che è cosiddetto un incubatore di imprese privato. Questo posto dà i soldi iniziali a ragazzi che hanno intraprendenza per iniziare la propria avventura. Quindi noi siamo usciti da quella presentazione con 40.000 euro. Quindi in tutto all'oggi quanto hai raccolto di finanziamenti? I finanziamenti privati 1.300.000 euro che ci stanno permettendo di crescere in maniera molto più veloce rispetto a quello che potremmo fare senza. Kurami domani, dove te la immagini? Noi oggi stiamo facendo due attività, un'attività solamente di espansione commerciale di Kurami fuori dall'Italia, dall'altra quello di andare a completare un po' la soluzione Kurami come la conosciamo tutti, ovvero quella solo del bigliettino, il parrucchiere o per esempio il campo di calcio o per esempio il libro professionista, che non ha una fila di clienti come può avere un ufficio comunale, ma ha bisogno di un metodo innovativo per gestire la propria agenda. Senti, mi dici solo l'ultima cosa, cosa ti ha detto Tim Cook quando l'hai incontrato? Guarda, è stato forse il momento più emozionante della mia vita. Di Kurami sapeva abbastanza, ma voleva comunque sapere di più come è nata l'idea, come fare startup in Italia, perché loro vengono da un mondo totalmente diverso dal nostro, e su quali fossero i prossimi passi, su come Apple può darci una mano, come può supportarci. Quindi sta seguendo? Diciamo che sì, non in contatto con lui direttamente, però chiediamo una mano quando abbiamo dei dubbi, o meglio ci seguono su tutto quello che è il punto di vista tecnologico della nostra app. Cravetto, io non ho capito. Faccio te, non ho capito. Non hai capito cosa? Ma è Kurami o Kurami? Fiori, dimmi. Curati. Ah, grazie. I David di Donatella. Che poesia. Donatella, buongiorno. Sì, buongiorno, certo, buongiorno. Tu la devi smettere di farmi le trappole, hai capito? No, Donatella, ma che trappole? Sì, che trappole? Che mi mandi al cinema a vedere una cosa e poi invece un'altra. Io mi pensavo di vedere il genere musical. Musical. Invece... Non mi interrompere. Scusi. Hai capito? Scusi, però io non le avevo mai detto che avrebbe visto un musical. Cantant. Tu che ti aspetti di vedere? The Accountant, il contabile. Sì, sì, poi tanto poi... Ti appiccichi sugli specchi, te. Va bene, senta, io mi appiccico sugli specchi, ma lei l'ha visto il film? Certo che l'ho visto. Bene. Però parla di questo tipo, che è molto bravo con la matematica, tipo che tu gli dici quanto fa questo per quello, diviso l'altro, con le radici quadrate in mezzo, le equazioni esponentiche. Esponenti, E lui te lo dice, insomma, fai i conti. Vostro figlio è un ragazzo straordinario. Le sue capacità cognitive sono molto sviluppate. Ha più cose in comune con Einstein o Mozart di quante ne abbia con noi. Hai capito? Infatti lui da piccolo era pure un autista. No, non ho capito. In che senso? Che guidava? non guidava niente, era autista nel senso che era molto chiuso, ma nello stesso tempo era geniale. Ma no, Donatella, era autistico. Non mi interrompere. E invece da grande tiene i conti di alcuni brutti ceffi e poi viene chiamato per aiutare dei ceffi ancora più brutti. E allora cominciano a pedinarlo le spie. Donatella, ma lo sa che oggi è particolarmente chiara? Che vuoi dire? Niente, Donatella, che è un po' confusa. Io sono confusa. Allora basta proprio. Vuoi sapere gli attori? Te li dico. C'è Ben Affleck. No, Donatella, è Ben Affleck. Anna Kendrick. Sì? E il film invece l'ha fatto un certo Gavin O'Connor. Bravo. Certo? Poi adesso vuoi sapere se vale la pena vedere questo cantante? Sì, The Accountant. Vale la pena vedere il film, bla bla bla. Io ti dico sì, vale la pena. Perché è un film di numeri, di buoni, di cattivi, di geni, di pistole, di vivi, di morti, di inseguimenti. Donatella, non si arrabbi così tanto, grazie. Grazie, Donatella. Solo questo sai dire tu. Di nuovo, Donatella, la ringrazio. Prego, però io comunque preferisco il genere musicale. Holiday Madonna, e insieme a Madonna naturalmente chi arriva, chi ci può essere, arriva il 1984 insieme a il dottor Franco Schipani. Ciao ragazzi, ciao Ale. Quanta allegria, ciao, Franco. Sono particolarmente allegro, un tempo meraviglioso. Allora, tu hai mai fatto il segretario? A parte di voi due, ecco, a parte di della mattina, Franco, abbiamo dimenticato l'acqua, che sei così carino. Dai, allora, dato che va giù a prendere l'acqua, ci prendi anche le gomme americane, le cose, cioè, alla fine diventa un favore, diventa un trasloco, diciamocelo. Ma Ale, ma per tutto questo quanto dovremmo lasciargli secondo te? Franco, quanto vuoi? Non lo so, però ricordatevi una cosa, che io sono stato l'unico che è riuscito anni fa, quando è uscito Harry Potter, non so come ho fatto esattamente, però mi sono accaparrato un'intera fila del cinema Barberini di Roma, quindi aspettavo che poi, sai, le madri distratte. Ma quindi ci stai dicendo che se in occasioni del genere sei disponibile? Franco, mi vai a prendere i biglietti del concerto? Impossibile. No, è proprio una fila. Ti stai offrendo. E c'erano le mamme, ma come sei stato carino, ma ci hai pensato tutto, vi posso ricattare a vita. Lì sono partiti inviti a cena, pranzi, disposte a tutto, guarda, molto carine. Bene, Franco. Allora, in attesa che Franco ci vada a recuperare i biglietti per cosa? Qual è l'evento dell'anno per cui Franco può combattere per noi? Non ho idea. Beh, aspetta, perché dalla regia Alessandro Chiappini ha un suggerimento ed è il concerto di Tiziano Ferro. Oh, che evento! Un evento! Sei in grado di fare tanto, Franco? Guarda, tra le mie cugine, Divina Russo di Catanzaro Lido mi ha già chiamato 2 giorni fa dicendomi c'è il concerto. Dico, guarda, adesso, ma me lo devi dire prima, mi devi un attimo organizzare. No, è a giugno. Guarda, giugno anche del 2017. Per tempo per tutti, anche per un altro mio amico. Allora, si chiama Francesco, è un patito di Tiziano Ferro, detto il rosco, ci tiene tantissimo. Va bene, la chiamo Tiziano, vedo cosa si può fare. Gli cedo io il mio a Francesco. No, ma tu non puoi mancare. Va bene, Alessandra Gravetto, ciao. Noi invece andiamo nel 1984 con il dottor Franco Schipani e con la dottoressa Alessandra Fiori. Ci sentiamo subito dopo la pubblicità.